591. Paste di farina gialla, seconda maniera. Queste riescono assai più gentili delle precedenti. Farina di gran turco grammi 200, burro grammi 100, zucchero a velo grammi 80, fiori secchi del sambuco comune grammi 10, rossi d'uovo numero 2. Se nell'interidere la pasta riuscisse troppo soda, rammorbiditela con un gocciolo d'acqua, spianatela col mattarello alla grossezza poco più di uno scudo e tagliatela a dischetti come quelli del numero 634, perché anche questi si possono servire col tè e per renderli più appariscenti si possono, nella stessa maniera, screziare alla superficie con le punte di una forchetta o con la grattugia. I fiori e le foglie del sambuco hanno virtù diuretica e diaforetica, e cioè, perché tutti intendano, senza tanto velo di pudicizia, fanno orinare e sudare e si trovano in vendita dai semplicisti.